la questione parte proprio da questa preoccupazione che ormai è oggetto del presente, non potenziale. Le banche per raccogliere hanno bisogno di farlo con tassi più alti, data la differenza di spread tra i bund tedeschi e i BTP italiani, e di conseguenza prestano denaro a tassi più alti alle imprese italiane, aumentando lo spread. Questa situazione crea una tensione nel mercato che possiamo definire un paradosso tra la politica monetaria della Banca Europea, che tenta di tenere i tassi bassi per tentare una politica espansiva in fase di crisi, e il paradosso italiano, che è funzionale agli spread, chiaramente invece porta in alto i tassi. E quindi la preoccupazione del sistema industriale italiano, piccole, medie e grandi, è quello che questa tendenza nel medio termine, ma quando parliamo di medie parliamo di mesi, cioè di settimane, non di anni, possa essere una potenziale paralisi del sistema di imprese italiane. Questa è la grande questione che abbiamo di fronte. Allora, sì, tra l'altro devo dire che la preoccupazione non è solo vostra, perché Gabriele Piccini, Country Manager Italia di Unicredit, ha detto: se la congiuntura economica non cambia, l'ho detto circa 2 ore fa, se non cambiano gli attuali livelli di spread, cioè quanto costa l'Italia indebitarsi rispetto a quanto non costa la Germania, avremo rischi di credit crunch, ossia di restringimento del credito, molto molto forti. È una realtà cruda, è brutto dirlo, ha aggiunto Piccini, ma in una condizione come questa, in una crisi strutturale di liquidità, non si può fare credito a qualsiasi costo e dappertutto, e alla fine si scarica poi su chi fa impresa. Boccia, voi che cosa proponete? Perché è chiaro che le banche hanno questa volta un oggettivo problema a finanziarsi, un po' a finanziarsi e un po' non si fidano. Infatti la questione questa volta non è nel rapporto banca-impresa, la questione, diciamo, è a tre, non è più tra noi e le banche, perché non possiamo chiedere alle banche di finanziarci a tassi più bassi di quanto è la loro raccolta, quindi la questione non è questa, la questione è rimuovere le cause di questo differenziale di spread, e quindi ritorna alla questione di politica economica e quindi alla nostra premura, al nervosismo della base associativa, ben interpretato dalla Presidente Marcegaglia, nel chiedere a questo governo, nel fare di fatto un appello di attenzione a crescita e debito oltre che a deficit, per uscire in maniera strutturale e definitiva da questo cul-de-sac in cui siamo entrati.